Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. In realtà per alcuni versi, come prevedibile, sono temi che vanno avanti da giorni. Mi riferisco al salvataggio della Popolare di Vicenza e Veneto Banca, con una diversa lettura rispetto a quella che, alla lettura che c'è in Italia. All'estero segnalo per esempio che la stampa spagnola critica molto questa operazione, salvataggio all'italiana, sostanzialmente dice: a noi avete imposto un blitz sul Banco Popolare in cui lo Stato non fa nulla, tutto se l'è comprato Santander per un euro simbolico, diverso l'operazione italiana. L'Italia addirittura scrive Il Mundo, il quotidiano economico spagnolo Il Mundo, mostra le falle dell'Unione Europea, dell'Unione Bancaria, perché l'operazione costerà 700 euro ogni contribuente italiano, e addirittura dice Il Mondo: Roma si prende gioco dell'Unione Europea. Perché fa il paragone col Banco Popolare, dice: i detentori del debito di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca eviteranno le perdite che invece hanno subito quelle del Banco Popolare. Ma i contribuenti spagnoli, che già hanno sofferto abbastanza, ne escono in condizioni incomparabilmente migliori. Tra l'altro, su questo devo dire che invece il fondo salva stati ISM, per voce del suo presidente Klaus Regling, ha detto che in Italia non c'è un problema acuto per il settore bancario e le regole dell'Unione Europea sono state rispettate. La crisi bancaria italiana è una crisi circoscritta che arriva dal passato, e anche il commissario europeo mai tenero alla concorrenza, Margrethe Vestager, quella che aveva bloccato l'operazione iniziale chiedendo che 1 miliardo di euro fosse messo dai privati e non tutto, diciamo, la parte pubblica, ha detto: le regole, la decisione sulle banche venete non ha aggirato le regole europee. Ne parleremo. Faccio notare, come scrivono anche alcuni ascoltatori, che il tema non era solo sui dipendenti, anche perché Intesa San Paolo ha chiarito che non si tratta di licenziamenti, ma si tratta di atti volontari, cessazione volontaria di rapporto, ma il problema riguardava sia i dipendenti, altrimenti in caso di fallimento, sia i correntisti di queste banche, ma anche tutte le centinaia, le migliaia di imprese che hanno finanziamenti con queste banche, perché è chiaro che quando una banca va in amministrazione, in quel caso controllata, o comunque va verso un processo fallimentare, la prima cosa si chiede di rientrare ai creditori, e quindi c'era un tema, diciamo, di rapporto con la clientela e di persone fisiche, di famiglie, ma anche un tema di persone giuridiche e di piccole, piccolissime, in molti casi, visto il territorio tra Vicenza e Treviso, piccole, piccolissime imprese. Ne parleremo, così come invece tema tra virgolette nuovo anche qui, perché dopo la presentazione della spending review della settimana scorsa, abbiamo avuto ospite il commissario della spending review Carlo Joram Gutkel. Oggi ci sarà l'ex commissario della spending review Carlo Cottarelli, appunto, che attualmente è direttore esecutivo del Fondo Monetario Italiano. Parliamo non solo di quello, anche della ripresa in atto e anche della vicenda bancaria, Saravoglia Cottarelli. Però il motivo per cui ne parliamo è perché la Corte dei Conti oggi, nella relazione sul rendiconto generale dello Stato, ha detto che in Italia il recupero della crescita del PIL è ancora troppo modesto, in ritardo con il resto dell'Unione Europea, e fin qua lo sapevamo. E poi l'elevato livello del debito pubblico, elemento di maggiore vulnerabilità dell'Italia, impone alla politica economica un rientro non solo come chiesto dall'Europa, cioè non solo per i vincoli europei, e qui il tema che affronteremo, a consuntivo, scrive la Corte dei Conti, le misure messe in atto sulla spending review sembrano avere salvaguardato l'operare di interventi di sostegno di comparti produttivi, non hanno prodotto risultati di contenimento del livello complessivo della spesa. Resta quindi ancora attuale la necessità di una revisione attenta di quanto può o non può essere speso a carico del bilancio dello Stato. Oggi Gutgeld ha, tra virgolette, scritto una risposta a quanto all'allievo della Corte dei Conti, perché ha detto: un risparmio complessivo pari a 29,9 miliardi nel 2017 è stato ottenuto grazie alla spending review, che è servita a realizzare tre obiettivi: riduzione del deficit, riduzione della pressione fiscale e ammodernamento e ampliamento dei servizi pubblici. E ripeto, ne parleremo perché il tema resta di estrema attualità. Ancora, per quello che riguarda invece la borsa, segnalo che anche oggi Intesa San Paolo viene premiata dal mercato, più 2,22%, e in maniera non tanto come incremento quanto come positività, anche superiore rispetto a ieri, perché è il principale titolo in crescita oggi nell'S&P MIB. Segue UbiBank più 1,30%, poi Saipem più 1%, tutti gli altri titoli bancari, BPER guadagnano 0,40%, sono al palo: Banco BPM meno 0,30%, Unipol meno 0,32%, e via così. Quindi l'unico titolo che va in controtendenza è ancora Intesa San Paolo, dopo l'operazione annunciata su Veneto Banca e Popolare di Vicenza. Il fronte opposto invece vede invece perdere Enel meno 3,20%, Exor meno 3, Italgas meno 2,70%, come ricordati il 2,30% lo perde Atlantia e Snam, ma anche Terna, il 2,20% Brembo, e anche A2A l'1,80% è il calo di Prysmian e Ferrari, l'1,60% quello di CNH Industrial e Salvatore Ferragamo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Ricordo che il programma è anche trasmesso video sul sito di Radio 24 e appunto con la diretta su Facebook. Andiamo rapidamente con le notizie in breve. Partiamo dall'economia internazionale, perché il Fondo Monetario oggi ha tagliato le stime, a sorpresa devo dire, di crescita per gli Stati Uniti al 2,1% quest'anno, contro il 2,3% stimato precedentemente nel mese di aprile, e 2,1% anche nel 2018. Poi scenderà la crescita, secondo il Fondo Monetario, all'1,9%. Il Fondo Monetario dà anche qualche suggerimento agli Stati Uniti, dice che l'attuale approccio alla regolamentazione e alla supervisione finanziaria dovrebbe essere mantenuto, visto che l'amministrazione Trump punta invece a rivedere le norme che regolano la finanza, abolendo la riforma di Obama, molto morbida, l'abbiamo detto molte volte, molto cauta, per evitare il ripetersi di fenomeni, diciamo, di quello che capitò, che esplose tra il 2007 e il 2008. Parleremo anche di Google, chiaro il tema della giornata. Già ieri abbiamo ipotizzato che sarebbe arrivata una multa pesante, non così pesante come quella che poi è stata. Ieri circolava l'indiscrezione di 1 miliardo di euro, invece la Commissione europea ha deciso di imporre a Google una multa record da 2 miliardi 420 milioni di euro, è la più alta mai comminata dall'Unione europea. Questo perché Google è accusata di aver abusato della sua posizione dominante nel campo dei motori di ricerca, dando un vantaggio illegale al suo servizio di comparazione degli acquisti. L'azienda ora ha 90 giorni per mettere fine alla pratica, oppure dovrà affrontare una nuova ammenda che vale fino al 5% del fatturato giornaliero di Alphabet. Google ha detto di non essere d'accordo: non siamo rispettosamente d'accordo con le conclusioni. Rivedremo la decisione della Commissione nel dettaglio, in quanto stiamo considerando di fare ricorso e continueremo a perorare la nostra causa. La ripresa dell'euro è al di sopra del trend e ben distribuita, così Mario Draghi oggi durante il forum delle banche centrali che si è tenuto a Sintra in Portogallo. Dicevo, Draghi ha rivendicato anche il ruolo della BCE in questa ripresa economica dell'area euro, che è appunto al di sopra del trend e ben distribuita. Dall'inizio degli acquisti di titoli pubblici, quindi da quando Draghi è partito con il quantitative easing a gennaio 2015, 60 miliardi ogni mese, L'economia dell'euro è cresciuta del 3,6%, più degli Stati Uniti dopo il quantitative easing 1 e 2 nello stesso periodo. L'occupazione nell'area euro è cresciuta anche di, sottolinea Draghi, di oltre 4 milioni di unità. We can be confident. Possiamo essere fiduciosi sul fatto che le nostre politiche monetarie stiano funzionando e che gradualmente dispiegheranno pienamente il loro effetto sull'inflazione. Ma a tal fine le nostre politiche devono proseguire e dobbiamo essere prudenti nelle modalità con cui ne calibriamo le modalità in rapporto ai miglioramenti registrati nell'economia. Volendo contestualizzare l'effetto di queste misure, a partire dal gennaio 2015, quando fu annunciato l'inizio degli acquisti di titoli pubblici, il PIL della zona euro è cresciuto del 3,6%, ossia più di quanto registrato negli Stati Uniti dopo l'annuncio del primo e del secondo quantitative easing, e un punto percentuale in meno rispetto al periodo seguito al terzo quantitative easing. Nell'area euro l'occupazione è salita di 4 milioni di unità, un risultato comparabile a quanto avvenuto negli Stati Uniti dopo il secondo e il terzo quantitative easing e decisamente superiore al primo. E ancora Draghi ha detto che nell'area euro c'è una ritrovata fiducia nel processo di riforma e nel sostegno alla coesione che potrebbero aiutare a liberare domande e investimenti. Per anni l'area euro è stata avvolta da una nube di incertezza sulla possibilità di realizzare le necessarie riforme sia a livello nazionale che a livello dell'Unione. Oggi le cose sono cambiate e sul versante politico, io non so se il riferimento fosse anche a Macron, sul versante politico, detto Draghi, ispirano venti favorevoli. Passiamo all'Italia perché con due notizie. La prima riguarda il lavoro. Il numero dei lavoratori a chiamata o intermittenti nei primi tre mesi del 2017 ha subito un notevole incremento, più 13%, anche a seguito di fenomeni di sostituzione rispetto ai voucher. Lo ha affermato la nota congiunta di Istat, Ministero del Lavoro, INPS e INAIL. Questo incremento segue 4 anni di progressiva riduzione tendenziale. Resta invece stabile l'intensità lavorativa misurata come numero medio di giornate retribuite, 10 giornate al mese. Cioè sostanzialmente quello che ci dice Istat, Ministero del Lavoro, INPS e INAIL è che venendo meno i voucher sono ripartiti per un numero di giornate simile a quelle usate nei voucher i contratti dei lavoratori a chiamata o intermittenti. Su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24 sulle 24 ore, trasmessi anche su RDS, oggi a firma del vice direttore sulle 24 ore Alberto Orioli. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. Come volevasi dimostrare, il lavoro a chiamata sta sostituendo i vecchi voucher aboliti su pressione referendaria e sono cresciuti del 13,1% nel primo trimestre. È una delle conclusioni cui giunge la rilevazione congiunta tra Istat, Ministero del Lavoro, INPS e INAIL proprio sul mercato del lavoro. C'è anche una buona notizia. Nel primo trimestre prosegue la tendenza all'aumento dell'occupazione con un tasso del 57,6%. Intendiamoci, è ancora un tasso basso, di quasi 10 punti inferiori a paesi simili in Europa e ben più performanti, ma resta il fatto che è una tendenza positiva. Comunque aumenta il tasso di partecipazione dovuto proprio all'incremento degli occupati, 326.000, e delle persone in cerca di lavoro, più 51.000, a fronte di una diminuzione degli inattivi che sono scesi di 473.000 unità. Dopo due trimestri di calo torna a crescere anche il numero di occupati tra i 15 e i 34 anni, in termini sia tendenziali che congiunturali. Soprattutto è importante che si assottigli l'esercito degli inattivi, che sono il vero segnale della sfiducia. Dai dati incrociati emerge però che sono in aumento i contratti a tempo determinato più che non quelli a tempo indeterminato, che invece sono in calo. Nel primo trimestre 2017 le attivazioni nel lavoro dipendente e i nuovi contratti hanno superato i 2,1 milioni di unità a fronte di poco più di 2 milioni di cessazioni, determinando quindi un saldo positivo di 117.000 posizioni. Ciò è dovuto in gran parte alla crescita nei servizi e seppure ridotta nell'industria in senso stretto. Agricoltura e costruzioni invece segnano una riduzione. Se cresce quello dipendente, cala il lavoro indipendente, che torna sul suo trend di medio periodo. Probabilmente in un recente passato si erano create situazioni di un uso anomalo delle partite IVA. Insomma, un quadro che, pur se positivo, sembra legato sempre a una fase di sospensione. È urgente un intervento importante sul cuneo fiscale in modo da sbloccare una volta per tutte le assunzioni dei giovani e con esse dare corpo a una ricerca che è ancora in cerca di muscoli. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Ancora due notizie che riguardano l'Italia e sono positive. Il clima di fiducia delle imprese e delle costruzioni registrato dall'Istat a giugno è il più alto da 9 anni a questa parte. Lo dico prima di avere e di essere invaso dai messaggi. Sono segnali ancora in molti casi a macchie di leopardo, però sono segnali positivi che noi stiamo registrando come Istat da mesi. Di un miglioramento del clima economico, anche qui un miglioramento non per tutti, in alcune aree sì, in altre no, soprattutto in alcune tipologie di imprese sì, in altre abbastanza, in altre per nulla, però il dato è per forza di cose sintetico e aggregato. Il clima di fiducia è il più alto da 9 anni, e cioè dall'aprile del 2008, e fa il paio questo con il recupero della fiducia di consumatori e imprese a giugno. Siamo a 105 punti, a 106 punti per quello che riguarda le famiglie, 106,4 punti e in leggero rialzo anche per le imprese. I miglioramenti più forti si hanno sul clima di fiducia delle famiglie, però, e sono estesi a tutti i componenti della fiducia. Ha commentato questo al microfono del nostro Giorgio Stamatopoulos il presidente Confindustria Vincenzo Boccia a margine dell'assemblea dell'Unione Petrolifera Italiana. Quindi di segnali di fiducia è un elemento importante, una delle grandi questioni dell'economia, non sottovalutare il fattore cosiddetto psicologico, perché senza la fiducia non si attivano investimenti e nemmeno consumi, il che dimostra che ancora una volta dobbiamo spingere sugli strumenti del piano industria 4.0 e determinare una grande capacità di reazione dell'Italia a partire dal sistema industriale, riattivando investimenti e quindi più export, più competitività e più occupazione del paese. Una volta ancora la questione industriale diventa una delle grandi di questioni nazionali del paese ed anche europea su cui vale la pena, diciamo, eventualmente confrontarsi nei prossimi mesi. E poi l'assemblea, appunto, dove ha parlato il presidente Confindustria Boccia dell'Unione Petrolifera Italiana, dove si è fatto il punto sull'anno che si è chiuso. Il gas è la prima fonte di energia in Italia, ha superato il petrolio. Per la prima volta nel 2016 è al 34,4% la domanda, più 5% contro il 34,2% del petrolio. Sono sostanzialmente in aumento i consumi di gas di circa 3,4 miliardi di metri cubi, un 5% in più. I consumi sono tornati a sfiorare i 71 miliardi di metri cubi, come nel 2001. Rispetto al picco del 2005 la domanda però è inferiore di oltre 15 miliardi, ci siamo un 18% sotto ancora al picco del 2005, ma è interessante anche da un punto di vista storico che il gas è la prima fonte. Non farò nessun tipo di polemica sul TAP e sugli ulivi, ma il gas è la prima fonte di approvvigionamento energetico italiano. Confermato Claudio Spinacci come presidente dell'Unione Petrolifera, e lo stesso Spinacci ha ricordato come in Italia vengono persi ogni anno 2 miliardi, evasi 2 miliardi di IVA e accise su benzina e gasolio. Questi sono soldi che non entrano nelle casse dello Stato attraverso la commercializzazione illegale. Questa è la stima dell'Unione Petrolifera. Il settore della commercializzazione dei carburanti continua a essere interessato da fenomeni di illegalità sempre più diffusi. Ecco perché l'Unione Petrolifera torna a chiedere una razionalizzazione della rete, fatta tuttora anche di piccole realtà che più facilmente rischiano di alimentare l'evasione fiscale. Il presidente, appunto, dei petrolieri italiani, Spinacci, al microfono del nostro Giorgio Stamatopoulos. Pensiamo che una efficace transizione energetica debba tenere insieme 3 obiettivi contemporaneamente. la sicurezza dell'approvvigionamento e il costo dell'energia sia per i consumatori che per il settore industriale e il traguardare gli obiettivi ambientali, sia quelli globali, la riduzione della CO2 di Parigi, che la qualità dell'aria nei grandi centri. Ecco, queste tre cose vanno tenute insieme, vanno raggiunti questi obiettivi contemporaneamente, altrimenti qualsiasi programma di lavoro diventerebbe insostenibile, prima socialmente che economicamente. Noi ci impegniamo a guidare la transizione verso un'economia low carbon attraverso un programma che sia realmente sostenibile dal punto di vista ambientale, industriale e sociale. Allora, il mondo bancario e le reazioni di oggi, oltre a quelle di ieri. Abbiamo spiegato in tutti i modi anche ieri che i 17 miliardi messi a disposizione dello Stato, 5 miliardi e 200 milioni sono un anticipo di cassa per gestire i 4.000 esuberi, anticipo di cassa a favore di Intesa San Paolo, perché altrimenti sarebbe andato sotto il suo capitale. 10 miliardi serviranno di garanzia per i prossimi tre anni, qualora Intesa San Paolo decidesse di non volere determinati crediti in bonus, sia sulle garanzie sui crediti in bonus, sia sulla loro eventuale trasformazione da in bonus, cioè da crediti ancora esigibili a crediti di difficile esigibilità o incagli. E poi 1,5 miliardi la protezione di correntisti e obbligazionisti. I crediti deteriorati, le sofferenze già esistenti delle due banche venete sono in tutto 18 miliardi di euro. Vengono affidati alla società del tesoro che si chiama SGA, società per la gestione dell'attività, creata come nel 97 come bad bank per le sofferenze del Banco di Napoli. Le due banche hanno attivi per 55 miliardi, che sono il 2% del totale nazionale. Il fallimento delle due banche avrebbe tra l'altro costretto le altre banche a versare soldi nel fondo di tutela interbancario per garantire i depositi, 12 miliardi, quindi le banche avrebbero dovuto fare altri aumenti di capitali, di capitale, deprezzare ulteriormente il valore del titolo. E poi la soluzione del governo, lo dico, salva gli obbligazionisti tradizionali che hanno in mano titoli per 10 miliardi. L'alternativa era, visto che non si trovava un'altra soluzione, il fallimento delle due banche, con conseguenze non solo per gli obbligazionisti tradizionali e i loro 10 miliardi, ma anche per gli occupati, anche per i correntisti se scattava il bail-in, perché sopra i 100.000 euro, auguri, e poi per tutti i crediti, magari ancora in bonus, perché nel momento in cui la banca va gambe all'aria, non gambellara, gambe all'aria, visto che parliamo di anche di Zonin, gambe all'aria, è chiaro che viene chiesto a tutti i piccoli imprenditori artigiani, oltre che le grandi imprese, di rientrare sui crediti concessi. Detto ciò, molta polemica oggi arriva soprattutto dalla Spagna e l'affronteremo con Donato Masciandaro, che insegna economia monetaria all'Università Bocconi di Milano, editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera, professore. Buonasera a lei, grazie dell'invito. Dopo il merito e la pubblicità ascolteremo la commissaria europea Vestager, che ha detto l'Italia ha rispettato tutte le regole dell'Unione Europea, non le ha girate. Invece citerò anche un pezzo molto duro del Mondo. Gli spagnoli sono arrabbiati perché dicono: noi abbiamo dovuto, per il Banco Popolare, abbiamo fatto un'operazione in cui il Santander si è presa 7 miliardi di debiti, ha pagato un euro, ma insomma nessun contribuente è stato toccato. Invece in Italia l'operazione costerà 700 euro ogni contribuente italiano. L'Italia si è presa a gioco dell'Unione Europea. È anche vero che la Spagna a suo tempo aveva fatto una forte richiesta al fondo ESM, 100 miliardi di euro nel 2012, per ricapitalizzare in maniera diretta oltre 53 miliardi di euro. Eva ha creato una bad bank per acquisire e smaltire le sue sofferenze bancarie. Lo stesso fondo ISM oggi dice che l'Italia ha rispettato comunque le regole europee, che in Italia non c'è un problema bancario acuto, una crisi circoscritta che arrivava dal passato. La sua analisi dopo il meteo, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. 17:38 minuti. Allora, professor Masciandaro, sentiamo intanto la commissaria europea Vestager che dice: no, l'operazione sulle banche fatta dall'Italia non ha girato le regole, ma il set di regole che abbiamo lascia spazio alle differenze dei diversi sistemi bancari. What we're doing here is using our set of rules. Quello che facciamo è utilizzare le nostre regole. Queste regole lasciano spazio agli stati membri che possono prendersi le proprie responsabilità. Siamo molto, molto precisi e attenti nell'assicurare che tutto avvenga secondo le regole. Certo, si può discutere delle regole, ma non sono mai state aggirate. Le nostre regole lasciano spazio agli stati membri e lasciano anche spazio al fatto che i sistemi bancari dei diversi paesi sono molto diversi perché si sono sviluppati nei secoli. Ci è permesso dai regolatori e dai legislatori di usare regole complesse ma flessibili che permettono al sistema di essere stabile. That allows our system to be stable. E invece la reazione spagnola molto dura. Partiamo da qui. Secondo lei la Spagna, che poche settimane fa ha fatto un'operazione analoga, insomma molte differenze, sul Banco Popolare, è seccata perché cosa? Perché l'attacco del Mondo, principale quotidiano economico, insomma è il Sole 24 Ore della spagnolo, è molto duro. Professor Masciandaro. La luna sono le regole del bail-in europee che sono sbagliate, e il dito è il caso italiano. Allora, chi si arrabbia col dito, delle tre luna, o è stupido, e non credo che sia il caso degli spagnoli, o è smemorato, e credo che sia il caso degli spagnoli, oppure è ignorante, e anche qui escludo la terza. Quindi si tratta di essere un po' smemorati. Si tratta di far finta di non capire o di dimenticarsi che queste regole, se ci sono regole sbagliate, poi non ci si deve lamentare se avvengono situazioni particolari come quelle che si sono verificate nel caso italiano. Sono le regole del bail-in che sono sbagliate. Ma questo secondo me va esteso anche al fatto che comunque la Spagna nel passato avesse chiesto e avuto 85 miliardi di euro, come ricordavo, 100 miliardi di euro dal Fondo Europeo ISM, e a sua volta aveva fatto dopo il 2012 una sua bad bank per acquisire e smaltire i non performing loans, le sofferenze bancarie, e aveva ricapitalizzato in maniera diretta per oltre 53 miliardi, o no? O sono due cose che non c'entrano? No, c'entrano nel senso che allora, quando si parte da una soluzione pasticciata, poi gli effetti non possono che essere pasticciati. Mi spiego, guardiamo un attimo negli Stati Uniti, com'è il meccanismo di risoluzione che non è stato mai applicato, disegnato nel 2010, ha una caratteristica fondamentale: i meccanismi di risoluzione per essere efficaci devono essere semplici, perché devono essere attivati in poco tempo con strutture molto semplici. E la ricetta ha tre elementi: ci deve essere comunque uno stato finanziatore che si prende anche la responsabilità politica della risoluzione, serve una burocrazia indipendente che gestisce il tema, e poi serve un organo di controllo che negli Stati Uniti sono le Camere. Ora, tutto questo in Europa non c'è. Si è voluto introdurre un principio in tempi sbagliati, con modi sbagliati, e poi non ci si può lamentare che le singole soluzioni possono piacere o non piacere, anche perché in un sistema così pasticciato c'è un altro effetto negativo: le authority hanno troppa discrezionalità e sono troppo opache, per cui alla fine, come in questi giorni, devono anche un po' arrampicarsi negli specchi per spiegare perché un singolo caso è così differente dagli altri. Tra l'altro, la Spagna, quando aiutò le sue banche, chiese fondi ISM, non c'era ancora il bail-in. Se ho ben capito, la sua critica è tutta concentrata, professor Masciandaro, sul bail-in, cioè con delle regole fatte in corso d'opera, quando già Spagna, Germania, Olanda, Francia si erano sistemate le loro sofferenze bancarie. È quella la critica che lei fa sulle regole? Assolutamente, cioè il meccanismo di risoluzione minimizzare i danni per i contribuenti, è un meccanismo sacrosanto che però andava disegnato in tempi diversi, non si fa durante la peggiore recessione dal dopoguerra, con modalità diverse, non si fa con effetti retroattivi e con un sistema europeo completamente, non si può disegnare un sistema che in parte europeo e in parte ancora legittimamente deroga alle legislazioni nazionali. Ma perché ci si arrabbia perché l'Italia ha applicato le proprie norme sulla liquidazione bancaria? Ci sono dal 36 in Italia, quindi francamente sono delle tre l'una: o si è smemorati, o si è ignoranti, o si fa finta di non capire, ecco. Sì, e questo riguarda il fronte, diciamo, del bail-in, perché la cosa, aggiungo io, non l'ha detto lei, sgradevole del bail-in, l'abbiamo detto in tutti i modi, cioè è stata l'insipienza della politica italiana che non ha saputo bloccare la cosa a livello europeo, e però anche il dato di fatto che il bail-in l'Europa lo vara dopo che i grandi paesi hanno sistemato per bene tutti i problemi delle loro banche. La Germania ha messo 123 miliardi per le Landesbanken e le Sparkasse, più 18 miliardi a sostegno di Commerzbank e Dresdner Bank, di cui 15 oggettivamente li ha restituiti. L'Irlanda aveva già messo 64 miliardi a sostegno, sono soldi pubblici anche quelli, lo dico a chi scrive, a sostegno del sistema bancario nazionale, sotto forma di nuovo debito pubblico, e ha creato l'Irlanda una bad bank per tutte le sofferenze bancarie. La Spagna, abbiamo già detto, nel 2012 fa richiesta di 100 miliardi di euro al Fondo Monetario ESM, crea una bad bank e effettua ricapitalizzazioni dirette per 53 miliardi. L'Olanda stessa mette 35 miliardi per le ricapitalizzazioni di ING e ABN AMRO. Dopodiché, fatte le pulizie in casa, se posso dire, professor Masciandaro, è arrivato il bail-in, che sostanzialmente andava ad applicarsi principalmente a un paese, oltre che alla Grecia, cioè all'Italia. Colpa anche nostra, della nostra classe politica, che non ha bloccato la cosa in quel periodo, perché era comodo dire a tutti dal 2012 in poi che le nostre banche erano diverse, le nostre banche non parlavano inglese, infatti non avevano derivati tossici, ma avevano un problema di sofferenze, di crediti dati a un tessuto produttivo che era andato in estrema difficoltà, professore. No, ma il problema non è solo che le regole sono state fatte in un momento sbagliato, ma sono anche, ancora oggi, sono sbagliate, nel senso, puntiamo gli orologi, vedremo che tra qualche tempo, in un altro caso nazionale, di nuovo torneremo a vedere, a concentrarci, ad arrabbiarci, uno Stato contro l'altro, perché quello Stato magari ha trovato una soluzione nazionale che alla fine consente di ottenere gli stessi obiettivi nei fatti, eludendo legittimamente il principio generale, ma è sbagliata la norma europea. Il problema non sarà dello Stato che a sua volta legittimamente troverà una soluzione ai suoi problemi bancari. Si tratta solo di puntare l'orologio e aspettare. Ma a quale banca fa riferimento, professore? No, nessuna. Quando una regola è sbagliata, no, in questo momento, grazie al cielo, forse qualcuno si sarà dispiaciuto in qualche perimetro internazionale, ma il caso italiano in questo momento non esiste più. È evidente però che ci si sono delle regole sbagliate. Beh, se sono delle regole sbagliate, prima o poi ci sarà qualche altro problema. È probabilistico. Resti con noi ancora, perché adesso ho il traffico, vorrei arrivare a quello che avremmo rischiato sul territorio e soprattutto alla sua valutazione se, chiusa sta vicenda, c'è ancora la Cassa di Risparmio di Genova, ma lì si è aperto un problema dopo la decisione di Malacalza, se come dice oggi la Vestager e anche l'EMA sono situazioni del passato e dovremmo andare verso una chiusura di queste situazioni, ma anche il tema dell'opinione pubblica. Scusate se insisto, ne parlavamo anche ieri con Luigi Zingales. A mio avviso la rabbia, l'irritazione dell'opinione pubblica è legata anche al fatto che i soldi sono di Pantalone, e vabbè, i soldi, diciamo, il governo salva gli obbligazionisti, appunto 10 miliardi di euro di obbligazionisti, però i soldi messi anche a garanzia, non intanto vanno tirati fuori, sono quasi 17 miliardi, mentre non si capisce che cosa stia succedendo agli ex vertici di queste banche, anche se devo dire che oggi è arrivato un primo rinvio a giudizio per i vertici di Veneto Banca. Ne parliamo dopo il traffico. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Focus Economia. Allora, professor Masciandaro, secondo il suo punto di vista, con questa vicenda delle due venete, c'è ancora Monte dei Paschi che è tutto un altro film, però si va, non dico a esaurire, ma a ridurre il tema delle sofferenze bancarie, e dall'altro quanto pesa il fatto che, e qui ho capito che il governo non ha responsabilità, e ci sono invece responsabilità anche della magistratura dell'inchiesta, la sensazione è che comunque i danni li fanno i banchieri, i cocci li paghiamo noi, non è una sensazione, per ora è un dato di fatto, i cocci li paghiamo noi, e quindi di conseguenza sì, ancora una volta si capitalizzano gli utili anche attraverso i bonus dati, l'abbiamo raccontato ieri da Iorio, quando complessivamente la banca nel 2015, la propria Vicenza, ha distribuito 50% in più di bonus rispetto all'anno prima, con una banca già fallita, a Zonina, a Sorato, allo stesso Iorio. E dicevo, si capitalizzano gli utili, si socializzano le perdite? Diciamo sulla vicenda che ha ricordato lei, è esistita una grande differenza tra percezione e fatti, dalle sofferenze fino a questa ultima vicenda. Nei numeri che lei ha ricordato prima, lei è partito da 5, poi è arrivato fino a 18, non ha mai detto 19, eppure due giorni fa uno dei due principali giornali internazionali sparava il titolone 19 miliardi. Quindi qui c'è un problema, e quindi la vicenda, affinché si continuerà a far panna sulle sofferenze italiane, nulla può essere definitivamente chiuso. Invece sul tema delle responsabilità bancarie, sulla percezione di impunità, qui francamente non vedo che cosa ci sia di speciale delle vicende bancarie rispetto a tutte le altre vicende che purtroppo caratterizzano il nostro paese. La percezione di impunità, purtroppo temo che sia in più di un settore. Quante volte ci siamo detti che il nostro sistema civile e penale è inefficiente, inefficace? Quindi concordo che c'è questa sensazione di impunità. Le chiedo, in quale altro settore del paese non percepiamo lo stesso senso di impunità? No, devo dire che, se vuole proprio una risposta a questa domanda, secondo me la classe politica viene giustamente messa sotto i riflettori quando ci sono vicende analoghe e quant'altro, crea danni economici, in questo caso in minori, cioè noi abbiamo ministri che si sono dimessi per motivi di opportunità. Qui a me sembra che il sistema abbia tentato di proteggersi finché ha potuto, a Vicenza come a Treviso, e il fatto che non siano state avviate serie, se non con lunghe fatiche, azioni risarcitorie, forse questo lascia l'amaro in bocca, o no, Masciandaro? Beh, lascia l'amaro in bocca, però a proposito di percezione, io non ho potuto non notare un'osservazione stamani di Francesco Giavazzi sul Corriere della Sera, che, ripetendola male, diceva: imprenditori veneti, e quindi società veneta, ma dove eravate? L'abbiamo detto anche noi modestamente ieri, agli indipendentisti, ecco, soprattutto. Così. Quindi diciamo, osservare è corretto, però bisogna avere anche, di nuovo, l'onestà intellettuale di non essere smemorati. Cioè, secondo lei c'è un tessuto ben più ampio di quello che è emerso, che creava consenso verso queste due banche? Ma è la vecchia storia del crimine dei colletti bianchi, raccontata a partire dagli anni 70. Ci sono delle situazioni in cui alcuni soggetti non percepiscono più che la probabilità di essere incriminato per comportamenti scorretti è diversa da zero. Finiscono per convincersi che tutto si può fare, e a quel punto lì il reato è endogeno al sistema entro cui quello reato viene commesso, e se no non si spiega il prolungarsi di certi comportamenti. Proprio sulla scia di quello che stava dicendo, nel salutarla e ringraziarla, rispondo a un messaggio, perché guardate, noi la politica l'abbiamo criticata, abbiamo un appuntamento il venerdì sugli sprechi della pubblica amministrazione, dei comuni, degli enti locali e quant'altro, però mi scrive un ascoltatore: Padoan, Renzi, Draghi, Gentiloni, frasi non posso riportarle perché vado verso la querela, avete, insomma, alcuni epiteti, avete distrutto due banche del Veneto per assecondare la Merkel, penso, avete accompagnato la loro distruzione guidata da putrefatti parassiti europei. Allora, vigliacchi dell'ero, guardi, noi abbiamo criticato molte volte l'insipienza del governo italiano a livello europeo e anche l'atteggiamento europeo, ma questa volta possiamo dirlo in maniera molto chiara che la crisi delle banche venete se la sono creata gli amministratori delle due banche e anche chi nel territorio non ha voluto, non ha saputo, non aveva interesse a controllare perché tutto andava bene, madama la Marchesa, tutte le assemblee della Popolare di Vicenza di Veneto Banca, perché erano stati dati molti prestiti sul territorio, prestiti baciati, non me ne frega nulla, bacio alla francese o all'italiana. Fatto sta che insomma quello che è emerso, anche la difficoltà di denuncia, tutto il consenso non solo di pezzi della procura, guardie di finanza che andavano poi a lavorare lì, ma anche della cosiddetta società civile, ecco, non prendiamoci per una volta con i politici, il governo romano e quello di Bruxelles, lì è la società civile della provincia di Vicenza, della provincia di Treviso, che deve interrogarsi su come sia stato possibile pensare a una, diciamo, a una festa infinita. Grazie intanto al professor Donato Masciandaro, andiamo sul GR24, poi Cottarelli, anzi prima Google e poi Cottarelli. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Oscar, mi aiuti? Eccomi! No, stai attento, prendila di lì! Ma cosa? È scivolosa! Guarda che esplode questa notizia, guarda che è una bomba! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. Notizie esplosive. E schiene dritte. Attenti a noi due, ogni giorno dalle 8:20 su Radio 24. Con Alessandro Milan e Oscar Giannino. L'informazione che non ha paura. Semmai ne fa. Focus Economia. e 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Andiamo adesso alla borsa, oggi giornata priva di grandissimi spunti. Milano ha perso l'1%, Parigi meno 0,70%, Francoforte meno 0,80%, Londra meno 0,17%, Dow Jones invariato, Milano in linea quindi con le borse europee principali. Di nuovo, come dicevamo in apertura, bene Intesa San Paolo, non come ieri ma insomma più 1,80%, che spicca perché è uno dei pochi titoli bancari positivi, quindi il mercato continua a premiare Intesa sull'operazione Veneto Banca e Popolare di Vicenza. L'altro titolo bancario è UbiBanca più 1%, Biper più 0,60%, Unicredit più 0,50%, Banca Generale invece ferma, Banco BPM perde lo 0,70% come Unipol e Banca Mediolanum. Sui titoli di carattere non bancario segnalo Saipem più 0,90%, mentre andiamo in questo caso sulla parte negativa del listino. Tutto il mondo dell'auto è oggi debole a livello europeo, non solo, perché ieri General Motors ha tagliato le stime sul mercato statunitense. E poi vi sono anche indiscrezioni secondo cui il Ministero dei Trasporti tedesco sta spingendo per la revisione del software per 12 milioni di auto. E poi c'è anche un altro allarme di utili più bassi delle attese di una società importante tedesca di componentistica. Fatto sta che si va a vendere i titoli legati all'auto. Questo a Milano vuol dire Xor meno 3,53%, Ferrari meno 2%, e appunto negativa anche Fiat Chrysler per quello che riguarda, e Brembo meno 2,40%. Debole anche Italgas meno 3,16%, ricordati meno 3% come Enel. E ancora cito Terna, oggi debole settore energetico meno 2,80%, Brembo meno 2,37%, dicevamo, A2A meno 2,24%, Case New Holland meno 2% come Luxottica. di Fiat Chrysler. Mi fate notare che non ho dato la percentuale, scusate, meno 1,20% il titolo, migliori peggiori in assoluto, Sogefi meno 4,90, Gequity meno 4,80, e invece sul fronte opposto Acotel Group più 15,30, Invest più 10,60, Ambro Mobiliare più 7%. Ma la notizia che sta, diciamo, scuotendo non tanto e non solo Google, ma in generale l'intero mondo dell'information technology, è la multa record che la Commissione Europea ha deciso di imporre a Google, 2 miliardi 420 milioni di euro, la più alta mai comminata dall'Unione Europea, perché Google avrebbe abusato della sua posizione dominante nel campo dei motori di ricerca, dando un vantaggio illegale al suo servizio di comparazione degli acquisti. Adesso l'azienda ha 90 giorni di tempo per mettere fine alla pratica, oppure dovrà affrontare una nuova ammenda fino al 5% del fatturato giornaliero di Alphabet, che è la società madre che controlla tutte le società del colosso del web. Ricordo che Google ha fatturato nel 2016 90 miliardi di euro e quindi, insomma, la multa è una multa significativa. Per capire, ci furono altre multe in questi anni, però qui l'accusa è un'accusa, diciamo, di carattere anticoncorrenziale. Ascoltiamo questo passaggio della commissaria alla concorrenza europea Margrethe Vestager, che ha illustrato il perché della multa. Today the commission has decided to fine Google 2.4 billion euros. Oggi la Commissione ha deciso di multare Google per 2,4 miliardi di euro per aver violato le leggi europee antitrust. Google ha abusato della sua posizione dominante nel campo dei motori di ricerca, dando un vantaggio illegale ad uno dei suoi prodotti, ossia il suo servizio di comparazione degli acquisti. Google deve porre fine a questo comportamento entro 90 giorni, altrimenti dovrà affrontare un'ammenda. Le regole europee antitrust si applicano a tutte le società che operano in Europa, non importa dove abbiano la propria sede. L'obiettivo è garantire la concorrenza e l'innovazione a beneficio dei consumatori europei. Google ha inventato molti prodotti e servizi innovativi che hanno fatto la differenza per la nostra vita. È una buona cosa, ma la strategia di Google per il suo servizio di comparazione degli acquisti non era solo attirare i clienti facendo sembrare il suo prodotto migliore di quello dei suoi rivali. Google, invece, ha abusato del suo dominio di mercato come motore di ricerca, promuovendo il proprio servizio di confronto nei suoi risultati di ricerca e abbassando quelli dei concorrenti. Ciò che Google ha fatto è illegale nelle regole antitrust dell'Unione Europea. Ha negato alle altre aziende la possibilità di competere sui meriti e di innovare. E cosa più importante, ha negato ai consumatori europei i benefici di una vera scelta di servizi e tutti i vantaggi dell'innovazione. The benefits of competition, genuine choice and innovation. Allora, il nostro Enrico Pagliarini, che conduce tra le altre cose il programma dedicato all'information technology di Radio 24 2024. Buonasera Enrico. Buonasera a tutti. Allora, la domanda è molto semplice. È chiaro che la Commissione Europea, intanto Google ha detto che non è d'accordo, ci mancherebbe, e faranno ricorso, ma abbiamo ascoltato le motivazioni della Commissione Europea. Qui il tema molto sottile, il distinguo molto sottile, è tra una normale attività, diciamo, di concorrenza, per cui tu chiaramente promuovi e proponi i tuoi prodotti, la tua, e invece l'accusa dell'Unione Europea che dice hai ottenuto un illecito vantaggio per il tuo servizio, se ho ben capito, di Google Shopping. Però uno, adesso non voglio fare io l'avvocato di Google, uno potrebbe dire beh, è chiaro che Google è il motore di ricerca principale a livello mondiale e spingerà sui suoi prodotti. Dov'è che la Commissione ravvisa invece una tale vantaggio illegale da arrivare a 2 miliardi e 420 milioni di euro di multa? Sì. Allora, diciamo innanzitutto che cos'è Google Shopping, che è un servizio di controllo dei prezzi su una serie di prodotti venduti da siti di e-commerce che pagano per questo servizio. Quindi Google guadagna da questo servizio e questi siti di e-commerce pagano per avere una posizione privilegiata quando un utente effettua una ricerca. Quindi facciamo un esempio: se tu cerchi un frullatore, è molto probabile che la pagina dei risultati mostri una serie di proposte suggerite appunto da questo servizio che si chiama Google Shopping, che provengono da questi siti di e-commerce che sono disposti a pagare questo servizio. Ci sono molti siti internet che a questo punto sono concorrenti di questo Google Shopping che fanno proprio questo di mestiere, cioè fanno i comparatori di prezzi. E non è un caso che le prime accuse 7 anni fa sono proprio partite da servizi di questo tipo. È ovvio che se tu sei un servizio di comparazione prezzi e ti aspetti di essere trovato all'interno del motore di ricerca e alla fine i risultati che invece magari ti trovano alla pagina 2, alla pagina 3 o anche oltre, questo è uno dei motivi che ha fatto sì che la Commissione Europea dica: tu Google hai una posizione talmente dominante, perché parliamo del 90% e oltre in tutta Europa, la cosa non è uguale negli Stati Uniti e in altri paesi. È anche particolare che Google abbia una posizione così forte soprattutto in Europa. È ovvio che di fronte a queste accuse di questi servizi la Commissione Europea abbia detto: hai abusato della tua posizione, perché tra l'altro questo è un servizio da cui tu guadagni, quindi non ti limiti a fare solamente il motore di ricerca, mettere in fila una serie di servizi, ma all'interno della ricerca un ulteriore servizio dal quale tu guadagni ulteriore denaro. E questa è una decisione che potrebbe avere implicazioni molto profonde sul futuro di Google, perché Google già oggi lo sta facendo in alcuni mercati, ma immaginiamo che cominci a fare e a proporre servizi del genere mondo delle assicurazioni. Sappiamo benissimo che ci sono tanti siti internet che si propongono come comparatori di varie assicurazioni. È ovvio che se Google all'interno delle ricerche propone lui stesso un servizio di questo genere, propone, va a fare concorrenza diretta. Quello che tu ci stai raccontando però è che propone non tanto un suo servizio, ma spinge in alto, diciamo, quelle società, quei siti che hanno pagato un fee a Google, ho capito bene, che hanno pagato, diciamo, una commissione a Google. Sì, sì, sì, sì, ma direttamente quelli che, ad esempio nel caso delle assicurazioni, ma comunque nel caso del produttore del frullatore, direttamente quelli che lo vendono, e quindi bypassando altri siti che fanno la comparazione di prezzi. Quindi se tu fai il comparatore di prezzi vieni automaticamente messo fuori dal mercato. E infatti quelli che hanno... Senti, Enrico, quindi in questo momento Google, a parte il ricorso, che possibilità avrebbe? Cioè tornare a portare, a dimostrare che non fa nessuna preferenza sui siti, diciamo, esatto, che hanno un accordo commerciale, sì, con lei, ma è un motore di ricerca neutro, come dovrebbero essere i motori di ricerca, ti porta tutti i siti, sia che abbiano un accordo commerciale con Google, sia che non ce l'abbiano? Esattamente, questa potrebbe essere una delle vie d'uscita. Però capiamo che qui siamo di fronte a una questione estremamente complicata. Allora, prima di tutto quello che abbiamo raccontato funziona grazie ad un algoritmo. E nessuno conosce l'algoritmo di Google, tant'è che l'Unione Europea, la Commissione Europea, ha fatto delle ricerche non sapendo come funziona l'algoritmo del motore di ricerca, ma facendo ricerche, proprio cliccando e vedendo quello che sono i risultati. L'indagine è durata 7 anni, quindi anche altri casi sono durati moltissimi anni, sì, ma stiamo parlando di un'indagine molto complessa, tant'è che appunto ci sono voluti così tanti anni. Tra l'altro, a proposito di questi 7 anni, c'è chi giustamente ha detto: nel mondo della tecnologia 7 anni sono un'infinità, e infatti questo servizio 7 anni fa non era assolutamente simile a quello che vediamo oggi, c'è stata un'evoluzione, quindi anche da questo punto di vista probabilmente Google avrà ragioni da offrire quando farà probabilmente ricorso, per dire: voi avete iniziato un'indagine 7 anni fa, oggi è tutta un'altra cosa. Ma è molto complicato, certo, ed è molto complessa la questione. E staremo a vedere il ricorso di Google e se farà ricorso Google o che cosa farà, se magari si adeguerà per evitare appunto di andare allo scontro con Bruxelles. Grazie Enrico Pagliarini. Traffico e poi l'ex commissario alla Spending Review Carlo Cottarelli, attualmente direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Focus Economia. Quest'anno la somma degli interventi fatti negli anni precedenti, 14, 15, 16 e l'ultimo anno, per quest'anno valgono 30 miliardi. Sono tutti, come ho fatto vedere, interventi contenuti nei vari leggi di bilancio, leggi di stabilità, riguardano tutti gli aspetti fondamentalmente della spesa corrente della pubblica amministrazione. Quindi, come ho spiegato, abbiamo aggredito circa una massa di 330 miliardi di costo, e su questo è stato fatto un lavoro che, rispetto a quello fatto da altri paesi, è, possiamo dirlo, è più incisivo. Il problema del debito pubblico è legato alla crescita, e questo è il vero problema. Noi abbiamo avuto negli ultimi anni una crescita reale bassa e inflazione bassissima, è la somma di questi due elementi che comporta diciamo il fatto che il debito si è stabilizzato sostanzialmente, ma finora non è sceso. Allora, guardando davanti, e questo è il vero, credo, la vera scommessa per gli anni futuri. Oh, così la settimana scorsa nel presentare i dati sulla spending review il commissario attuale alla spending review Joram Gutgeld rivendicando appunto un risparmio di che oggi rivendica su una lettera Corriere della Sera di quasi 30 miliardi. Lo dico perché la Corte dei Conti ha detto attenzione oggi nella relazione annuale rendiconto generale dello Stato, il presidente Angelo Buscema ha detto attenzione a consuntivo le misure messe in atto mentre sembrano avere salvaguardato l'operare di interventi di sostegno dei comparti produttivi, non hanno prodotto risultati di contenimento del livello complessivo della spesa. Tant'è che le agenzie titolano ancora no effetti della spending sul totale della spesa. Ringrazio il direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale, nonché ex commissario per la spending review, per la revisione della spesa pubblica nel governo Letta, Carlo Cottarelli, per essere in collegamento con noi. Buonasera. Buonasera. Allora, Cottarelli, lei, che, insomma, perché qua è difficile capire, la Corte dei Conti dice non avete aggredito il debito, Gutgeld dice abbiamo risparmiato 30 miliardi, io vedo che chiaramente il debito è aumentato di 20 miliardi solo tra aprile e maggio, 20 miliardi di euro, ho capito che il debito a livello nominale aumenta sempre, perché, ma è anche vero, insomma, è che la cosa importante è il rapporto debito su PIL. Però notiamo un aumento. Lei che idea si è fatto, visto che aveva preparato quel tomo, diciamo, se non ricordo male, erano quante 200-300 pagine, l'avevo anche visto, di spending review. Che idea si è fatto? Che la stiamo aggredendo ma troppo lentamente, che in realtà di più non si poteva fare per, diciamo, non avere un effetto shock anche sulla tenuta sociale? Cottarelli. Allora, la realtà, come spesso succede, sta nel mezzo, io non vorrei fare il solito, come si dice, cerchio bottista, però da un lato è vero che c'è stato un contenimento della spesa, nel senso che la crescita della spesa anche al netto degli interessi è stata molto più contenuta in Italia rispetto all'estero, su questo ha perfettamente ragione Joram Gutgeld, anche se probabilmente si sarebbe potuto fare di più tenendo conto del fatto che noi abbiamo un debito pubblico alto e che abbiamo anche intenzione e desiderio e siamo anche riusciti a ridurre un po' la tassazione. Io credo che sia comunque importante continuare sulla strada del contenimento della spesa, cercando di fare più di quello che si è fatto. Questo per riassumere la questione, poi si può andare nei dettagli tecnici, per esempio la Corte dei Conti probabilmente non tiene conto della correzione che invece fa Gutgeld sugli famosi 80 euro che l'Istat considera non come una detassazione ma come un trasferimento e quindi un aumento di spesa, ci sono questioni tecniche, però la sostanza è questa, secondo me si è fatto forse un po' meno di 30 miliardi perché ci sono anche lì problemi contabili, però qualcosa si è fatto ma si poteva fare di più. Ecco, Cottarelli, lei ricordava insomma che c'è il problema, ho capito il suo ragionamento, ha ragione Gutgeld, ma si poteva fare un po' di più dove? Perché c'è un punto che mi aveva impressionato del suo libro bianco sulla spending review e riguardava le municipalizzate, le 3.000 che lei definì inutili da un lato e dall'altro anche quelle le municipalizzate, voglio dire, partecipate dagli enti locali. Secondo lei su quello si è fatto qualcosa? Allora, prima di tutto, tornando un attimo all'aspetto di prima, perché è importante, quei 30 miliardi sono un po' gonfiati perché i 30 miliardi sono ottenuti assommando tutti i segni negativi nelle tabelle che fa la ragioneria. Alcuni di questi segni negativi non sono veri e propri tagli, ma sono semplicemente cambiamenti nel modo in cui si fanno certe cose. Nel 2015 si sono dati certi soldi ai comuni in un certo modo e meno in un altro. Ecco, questo sono considerate come tagli di spesa. Però insomma i tagli sono stati abbastanza consistenti su un insieme di voci. Lei mi dice le partecipate. No, perché lei nel suo dossier diceva ci sono 19, insomma, erano 19 sottodossier in cui lei indicava i possibili interventi per un valore complessivo di 10 miliardi, 700 milioni di euro nei possibili risparmi sui costi della politica e poi l'acquisto di beni. Mi scusi? si facevano proposte su tante cose che si sono fatte, ma anche tante cose che non si sono fatte. Poi c'era l'acquisto di beni e servizi con risparmi per quasi 2 miliardi, ma e poi indicava un ampio margine sullo sfoltimento delle partecipate. Se non ricordo male, lei ne individuò addirittura 3.000 che erano del tutto inutili anche nella loro governance. Dov'è che si è inciso meno, secondo lei? Mettiamola così. Allora, sulle partecipate io facevo proposte che da 8.000 potevano portare a 1.000. I risparmi relativi non erano enormi, erano i 2 o 3 miliardi. Beh, insomma. Quindi comunque non trascurabili. Lì non credo sinceramente che si sia fatto molto. Vedremo adesso con la riforma Madia se si riuscirà ad incidere, però per ora non credo che si sia fatto molto. L'elenco di cose che si dovevano fare, forse la cosa più importante secondo me resta una questione di spesa per le pensioni, i trasferimenti fatti per pensioni che riguardano non il futuro, la riforma Fornero ha già riformato le pensioni future, però c'è un problema di tanti che sono andati in pensione con pensioni anche abbastanza elevate che non corrispondono ai contributi pagati. Quindi questa è una questione politica. Gutgel lì la considera al di fuori addirittura della spesa aggredibile. Io ho sempre sostenuto nel mio lavoro, nei miei libri, che quella deve essere considerata, è una voce così grande che è difficile non considerarla. Poi ci sono i vari trasferimenti che si fanno al cinema, alle televisioni, ai giornali e così via. Anche quella è una cosa che potrebbe essere all'ippica, non sono cifre enormi. C'è la questione della spesa per i dirigenti pubblici, si è messo un tetto per gli stipendi dei dirigenti pubblici, si è messo un tetto di 240.000 euro lordi che ha colpito circa una trentina di persone. Io avevo fatto proposte più ampie perché, tenendo conto del nostro reddito pro capite, i nostri dirigenti, soprattutto nei ministeri, non nella scuola per esempio, ma in certi settori come i ministeri, sono pagati più dei loro corrispettivi in Francia, in Germania e nel Regno Unito. Insomma, ce ne sono tante di voi. La sanità parecchio è già stato fatto, non credo ci sia tantissimo, qualcosa ancora si può fare di nuovo per risparmiare degli acquisti di beni e servizi nel settore del settore sanitario. Ci sono un po' di costi della politica che si possono andare a colpire. Ci sono poi, io l'ho detto, le partecipate, quando ho detto 2-3 miliardi, questo riguarda soltanto le partecipate locali, però ci sono le partecipate anche centrali, ci sono le ferrovie, c'è la questione di nuovo della RAI, delle spese della RAI, si sono aumentati i trasferimenti alla RAI perché la RAI ha ricevuto una parte del canone, del recupero dal canone, l'elenco è lungo. Allora Cottarelli, facciamo così, a me interessava in questo momento la sua opinione in quanto ex commissario della Spending Review, però... Siccome non voglio sminuire il suo ruolo attuale, la riavremo a brevissimo per parlare invece delle prospettive economiche, in quanto lei è direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale, di quello che vediamo a livello di scenario europeo e mondiale. Non voglio limitare il suo intervento solo alla spending review, ma era la parte prioritaria. Grazie quindi per adesso al direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale, Carlo Cottarelli, ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi ci risentiamo domani dalle 17 poi da Sebastiano Barisoni. L'augurio di una buona serata. Radio 24. Libera la voglia di fare.